Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io vengo qui e vi distruggo, io abuso di voi, io vi insulto e voi mi dite fallo ancora di più. Ma che vi prende? Perché continuate a telefonarmi? Non voglio sentirvi più, non chiamate! Interrompiamo questo programma per trasmettere un comunicato straordinario. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza. Passiamo la linea a Wilson Glen, New Jersey, dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. Sì! Sì, ciò che stiamo vedendo è orribile. Non credo ai miei occhi. La gente muore, viene calpestata nel suo disperato tentativo di fuga. I cavi dell'energia elettrica ha abbattuti ovunque. Potrebbe mancare da un minuto all'altro l'energia elettrica. Non ho mai visto niente di così. C'è un altro stormo di navi spaziali di alieni che sbucano dal cielo. In contrasto con la sua precedente baldanza, il signor Manulis, preso dal panico, schizzò fuori dalla macchina. Era così spaventato dalla cronaca dell'invasione interplanetaria che fuggì lasciando zia Bia. Sì, lo so che iniziare con lo scherzo di Orson Welles sugli alieni al 1938 per parlare della giornata mondiale della radio può sembrare un richiamo nostalgico e romantico, come parlate di radio, celebrate la radio, commemorate la radio, proprio mostrando quello che è l'elemento di dissacrazione, di mistificazione, di falsità della radio. No, non è esattamente così. Oggi è il 13 febbraio, quindi la terza edizione della giornata mondiale della radio. È una giornata in cui in tutto il mondo si celebra la radio. Noi la celebriamo nella piccolezza delle nostre memorie locali, ma in realtà la riflessione che si fa alla radio è molto importante. Bisogna capire se la radio può mantenere quello che è una sua vocazione genetica, di essere uno strumento di libertà, uno strumento di diffusione del pensiero. È sempre stata questa. Guardate che nella storia anche recente dell'umanità le radio hanno sempre rappresentato quel elemento atto a scardinare i meccanismi più tetragoni, più impenetrabili dell'occlusione alla libertà di espressione, alla circolazione delle notizie. Le radio hanno sempre rappresentato comunque la libertà. Perché? Perché la radio, secondo una formula a me molto cara, è leggera, trasparente e insinuante come può essere un fantasma. La facoltà che ha la radio oggi è quella di essere morta. Se Dio vuole, la radio è morta, è schiattata da decenni, è schiattata da secoli. Ma perché? Perché la radio non è più rappresentabile nella sua forma fisica. La radio non ha più un hardware. Questo è il bello della radio. La televisione rimarrà comunque qualcosa di antico, di vecchio, di muffito, di controllato, qualcosa che puzza di potere e di calzini stravaccati sul divano finché sarà rappresentabile un oggetto. Ancora esiste il televisore. Quando non esisterà più il televisore, anche la televisione avrà la stessa essenza di libertà che la radio. La radio la rappresentiamo soltanto per nostalgia in un oggetto. La nostra radio è rappresentata da un microfono moderno ma che in qualche maniera cita gli antichi microfoni, proprio quelli che usava Orson Welles nella sua trasmissione, che sono, diciamo, l'iconografia più persistente della radio. Alcuni di noi sono ancora legati alla radio in bachelite, alla radio in radica con scritto Eyer sopra, perché per noi la radio significa qualcosa che ha a che fare prima con il regime, con la nostalgia, e poi con l'uscita dal regime, Radio Londra, e poi con l'oggetto in plastica, in bachelite, con il sogno americano, poi con le radio libere, poi con l'illusione dello sparpagliamento del sapere, e poi a un certo punto la radio è morta, non se ne è più sentito parlare. Esisteva, era ancora uno strumento forte l'immaginario, ancora uno strumento di informazione, di controinformazione, non era più rappresentabile. Da un certo punto in poi non sono più esistite le radio, sono tutte morte, tutte seppellite. Eppure la radio è vivacissima, tanto si fa una giornata internazionale per capire quanto può servire ai paesi dove esistono regimi, ai paesi dove ci sono dei bisogni, ai paesi in cui c'è bisogno fortemente di interscambio culturale. Oggi la radio è un'essenza, è un puro spirito, è qualcosa che indifferentemente possiamo sentire nel nostro smartphone, nel nostro computer, la sentiamo dal televisore se ci colleghiamo ai canali radiofonici trasmessi nei bouquet televisivi. Possiamo cominciare a sentirla come radio digitale, visto che è un servizio fantastico, sta cominciando a diffondersi anche nel nostro paese. Anche la radio da cui parlo sta molto investendo nella radio digitale, quindi sta velocemente passando, trasferendosi come se fosse una sorta di trasmigrazione di anime da supporto in supporto. La radio è stata la prima a trovare una fantastica collocazione quando internet ancora era dominio di pochi, era appannaggio di pochissimi eletti. Ricordavo proprio con alcuni carissimi amici quando appunto nel 1996 per la prima volta una mia trasmissione radiofonica andò in internet. Ma sembrava di violare quelle che erano le regole ferree della comunicazione. Ascolti la radio con il computer. Guardate, oggi la gente ascolta probabilmente i programmi radiofonici in maniera molto più veloce, molto più diffusa attraverso il podcast piuttosto che attraverso l'ascolto obbligato di un palinsesto radiofonico, fatto per usi, costumi, abitudini che probabilmente non corrispondono sempre alla molteplicità del pubblico della radio. Perché stamattina vorrei, nel brevissimo tempo che ancora ho a disposizione, parlare della radio. La radio per me è qualcosa di fondamentale. Io sono 30 anni che parlo a un microfono radiofonico. La maggior parte dei miei pensieri, delle mie idee, delle mie esperienze, della mia vita, delle mie sconcezze, le ho tutte raccontate al microfono alla radio, senza pensarci prima, senza scrivermele, senza qualcuno me le suggerisce. Mi sono seduto per tante mattine negli ultimi 30 anni davanti a un microfono e ho detto quello che pensavo, in totale libertà, in totale dissennatezza, e forse qualcosa anche di questo è rimasto. 800240024, questa mattina mi dite come ascoltate voi la radio. L'ascoltate in piedi, seduti, muovendovi? L'ascoltate con l'apparecchio di casa, con il segno della frequenza segnato con lo smalto della nonna, che è sempre quello, rimasto lì, fissato? L'ascoltate attraverso apparecchi portatili? L'ascoltate dal computer mentre lavorate? L'ascoltate clandestinamente, senza farvi vedere? La riascoltate dopo attraverso il podcast? Quindi mi risponderete magari stasera, ma saprete come rintracciarmi, perché il bello è che anche noi che facciamo radio da tanto tempo siamo tutti morti, non esistiamo più, però continuiamo a parlarvi. GBR non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete, tanta musica gratis per farvi compagnia mentre guidate la vostra auto. Basta avere la radio sintonizzata su 102.5 GBR. Questi erano gli Yardbirds. Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. È una carica molto negativa oggi, Cari amici ascoltatori, vogliamo ricordare... È inutile che storciate la bocca, palatini raffinati, voi che crescete all'ombra delle radio culturali, all'ombra della radio snob, all'ombra delle radio cresciute, allignate con gli amici di terrazza. Questa era la vera voce delle radio libere negli anni 70, questa era la GBR, quando improvvisamente tutti capirono che da un garage con un piccolo mixer, con pochissimi apparecchi, chiunque poteva fare una radio. Fu l'esplosione, tutti facevano una radio. Le radio si accavallavano, si rincorrevano, si sovrapponevano, tutti facevano radio. Fu un momento fantastico in cui quello che sembrava il monopolio unico della RAI e della radio, che rappresentava una sorta di filtro fortissimo sulla realtà, perché guardate, io ricordo le trasmissioni Radio RAI si facevano in vivo differito quando c'era partecipazione del pubblico, cioè erano due studi collegati in parallelo. Noi facevamo la trasmissione rispondendo alle telefonate, però andava in onda tipo un paio di minuti dopo, che c'era sempre pronto col forbicione il funzionario, qualora qualcuno dicesse, che ne so, Fanfani è un nano e cose del genere, cose che erano indicibili a quel tempo, di quello si temeva. Oggi invece siamo in diretta, siamo liberissimi, possiamo fare quello che vogliamo, e lo faccio con la persona, secondo me, più competente in radio nel nostro paese, anche se pochi lo sanno. Andrea Lavendel, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andrea Lavendel è un giornalista freelance, vive seppellito nel suo mondo radiofonico, un esperto di tecnologia, economia dell'innovazione, appassionato di radiofonia, ha un blog radiopassioni.it dove c'è tutto quello che ogni giorno c'è da sapere di nuovo sulla radio. Facciamo un punto di questa giornata. Qual è il senso vero, secondo te, di una giornata mondiale della radio? Il mondo ha ancora bisogno di radio? Il mondo ha sempre più bisogno di radio. Bisogna considerare che la giornata mondiale è bandita dall'UNESCO, quindi sai, è un organismo molto rivolto ai paesi in via di sviluppo, soprattutto là dove la radio svolge ancora una funzione fondamentale. Quest'anno tra l'altro c'è anche attaccato un tema particolare, che è quella dell'uguaglianza dei generi, quindi la radiofonia come laboratorio anche per coltivare una maggiore equità. Cosa che si è visto, che rete è molto difficile, la rete ancora ha un forte taglio maschile. Appunto. appunto. E la diversità di pensiero, di punto di vista femminile, soffre un po' a mantenersi spazi vitali, perché? Perché le donne vengono strapazzate, soffocate, prevaricate dalla forma maschile. Invece la radio invece è possibile muoversi diversamente. È possibile muoversi diversamente, ci sono molte produttrici di programmi, ci sono molte direttrici di stazioni, di emittenti, sia pubbliche che commerciali. Quindi è un, come dico, un laboratorio vero e proprio dove la realtà può cambiare più in fretta e può insegnare alla realtà esterna come cambiare. È uno strumento ancora eccezionale nella sua... Fammi qualche esempio, Andrea. La radio noi stiamo inseguendo il massimo livello della tecnologia. Perché? Perché ce lo possiamo permettere, siamo occidentali, avanzati, anche se in crisi abbastanza ricchi. Ma ci sono paesi in cui non esiste nulla, non esiste la rete elettrica, non esiste internet. Io ricordo che proprio con te anni fa e con un grande amico che è Andrea Borgnino, che forse insieme a te è l'altra persona che qualcosa capisce di radio, andammo a investigare nelle radio più assurde. Mi comprai una radio che funzionava a manovella e con batteria solare, che era legata a dei progetti proprio per i paesi in via di sviluppo, che almeno sentivano la radio. Ci sono ancora. Io molto recentemente, durante il terribile alluvione nelle Filippine, c'è una organizzazione no profit che è in grado di montare una stazione radio praticamente tirandola fuori da una valigetta, con un trasmettitore a bassa potenza, un piccolo mixer, uno studio diciamo portatile, e riescono a ridare la voce alle emittenti locali anche dopo disastri tremendi. Sì, perché tutta la nostra tecnologia è sottoposta alle intemperie, basta un disastro naturale, basta un po' di pioggia a Roma per affogare, cose del genere. La radio però può superare ancora per la sua arcaicità, per la sua semplicità. La radio è leggera, la radio galleggia, sta a galla in qualsiasi situazione. È l'unico medium, diciamo, di questo tipo. Anche tanti esseri umani stanno a galla. Giorgio, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno, salve. Volevo solo parlare della mia passione per la radio, che è sfociata nella fondazione di una radio libera, ma non era questo il sogno. Che anno era? La Radio Libera fu una delle prime, 1974. Con quanti soldi allora smettesse una radio? Con quattro soldi, vero? Quattro soldi, un volgarissimo trasmettitore militare trasformato con un valvolone. Avevamo il geniaccio dell'elettronica, che con un'antenna sopra i tetti alla faccia della sicurezza montavamo noi, e dopo 2 ore di trasmissione ricevamo la prima telefonata. Bello. Che raggio coprivate? In che città eravate? Paesano, direi che avendo la prima frequenza eravamo fra i primi 10 chilometri al massimo, ma con una qualità da omicidio. Io mi ricordo, infatti funzionava così, con il registratore a cassette, col giradischi, con un mixer, ma a volte nemmeno il mixer, si infilavano le connessioni al volo così, con microfoni rimediati, ancora delle radio della guerra, perché non è che c'erano i cinesi che vendevano per strada l'elettronica. Era i primordi, ma in realtà quello che mi premeva sottolineare è che la fondazione della radio, di cui io sono stato uno fra i primi del mio paese, derivava dalla mia passione ad ascoltare le radio in onde corte, ma non come radio amatore, come proprio la vecchia radio di casa messa in onde corte. Alla sera io ascoltavo, perché me l'avevano detto i miei amici di scuola, pur di non studiare facevo queste cose, e ascoltavo le radio di tutto il mondo, che avevano in onde corte l'abitudine di mandare anche trasmissioni in italiano, magari solo per un'ora, e io ebbi a ascoltare Radio Tirana ai tempi dell'Albania, quando la stessa era... Beh, anche la Cina trasmetteva trasmissioni in italiano. E io, per la verità, Pechino credo di averla sentita malamente una volta. Ma fermiamoci un secondo da dare, scusi se la seguo le informazioni del traffico, il radioascolto, la possibilità negli anni, soprattutto della Guerra Fredda, in cui c'erano le radio bianche, le radio nere, le radio grigie, anche la propaganda passava al di là delle cortine con lo strumento radiofonico. Melog, cronache meridiane. Stai viaggiando in automobile, ascoltando alla radio il tuo programma preferito. Entri in galleria e il segnale sparisce, fai qualche chilometro di strada e comincia quel fruscio che ha fatto imprecare chiunque di noi. Bene, entro l'anno tutto questo sarà definitivamente un ricordo. La nuova era della radio sta per iniziare, anche in Italia, con un ritardo che ha dell'incredibile per il paese di Guglielmo Marconi. Il nuovo paradigma si chiama DAB, acronimo di Digital Audio Broadcast. Il segnale sarà pulito, continuo. Addio interferenze, l'ascolto. Questo sarà un compitino di un allievo della scuola di giornalismo della LUISS che parlava del DAB, della nuova forma di diffusione di radio digitale, ma lo mettiamo subito in rapporto con Alfredo. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Lei è altro che fruscio quando ascoltava la Radio Galena. Esatto. Io ho incominciato con la Radio Galena, penso che si sia documentato comunque, se no si documenta. Beh, anch'io ho giocato con le Radio Galena, non è che sono proprio un ragazzino. Addio, dopo nelle forme più avanzate. Ah, sì, indubbiamente, le due cuffie. Io vivevo in un paesino dell'Istria, mio padre era un tecnico esperto in queste cose, addirittura certe volte ci si avvicinava alla stazione di Trieste, quindi spostando. Che anno era? Lei 88 anni, leggo. Io 88 anni, quindi saranno stati gli anni, avrò voluto 5-6 anni, 31, 32 e poi avanti. E a Trieste addirittura mio padre. Quindi ancora prima del grande disastro, diciamo. Sì, purtroppo sì. Ieri era la giornata, ieri l'altro, la giornata del quando ancora, diciamo, ma io direi che sarebbe meglio dimenticare. Ma dimenticare mai non fa, poi ci pensa la natura a farci dimenticare, esatto. Quando ci rincoglioniamo dimentichiamo per forza, esatto. Quindi finché possiamo teniamo la memoria vigile. Allora lei ha cominciato con la Radio Galena, la Radio Galena lo spieghi perché con la radio, infatti anche sì, ma lo spieghi però, scusi, Alfredo sì. Diciamo Radio Galena, il pubblico medio che ha 30 anni, 40 anni non sa nemmeno cosa sia. Esatto. Come si faceva una Radio Galena? Dunque la Radio Galena era un circuito che veniva costruito naturalmente da un esperto e poi c'era questo apparecchietto fatto come se fosse una presa di corrente, cioè la presa più che è andata la spina per entrare e la si metteva su questo circuito, dentro c'era un minerale, la galena. Era un sassolino praticamente. Esatto, che si cercava con un ricercatore, c'era una specie di ago che si muoveva dal di fuori di questa ampolla e gradatamente, se la stazione non era troppo distante, noi da Rovigno d'Istria prendevamo Trieste e Pola e si riusciva nelle cuffie a sentire molto bene, ma poi naturalmente diventava un gioco anche, per cui si cercavano anche stazioni più lontane e poi ho continuato oggi ancora. Sento ho Radio 24 sintonizzata su tre apparecchi in tre stanze diverse, in maniera che se mi muovo... Beh, il minimo, adesso, quindi va bene. La sento dappertutto. Grazie Alfredo. Pierpaolo invece, un altro artigianato radiofonico. Sì. Pierpaolo, buongiorno. Come ascolta la radio lei? Buongiorno, l'ascolto nell'orto con una batteria della macchina. Mentre zappa l'orto. Ci ha fatto un accrocchio di casalingo, ho messo una radio con la batteria. Sì, una radio di una vecchia Ritmo Targa Oro di mio cognato che me la regalò quando cambiò l'autoradio e funziona ancora. Ma perché non ci mette un pannello solare? Tanto sta l'aria aperta, scusi. Ci ho pensato, ma per adesso la ricarico con i cavetti dalla macchina. No, col caricabatteria del vicino. Ah beh, frega la corrente al vicino. Presta e l'ascolto. Sì. Ah beh, come fa Homer Simpson con il proprio vicino. Sì, ecco, sembra bravo. Giusto. Andrea Lavendel, hai visto che alla fine noi possiamo parlare di tecnologie avanzatissime che sono nel nostro cuore, nella nostra mente, ma la radio rimane un giocattolo che può essere con poco artigianalmente costruita. Questa però è la chiave di salvezza per i paesi del terzo mondo, via di sviluppo, chiamiamoli così che è meglio, per cui oggi si parla di giornata della radio. Sì, ma tuttora la radio può essere fatta con pochissimi mezzi, anche oggi che alla galena abbiamo sostituito prima il transistor, poi i circuiti integrati, ormai bastano veramente dei quadratini di silicio che ti permettono di costruire con $5 una radio perfettamente funzionante. Ma esiste una forma di bricolage della radio autocostruita? Sì, come divertimento, non soltanto questo, anche a livello industriale ormai gli apparecchi riceventi si fanno con pochissimi componenti, con circuiti molto standard, molto poco costosi e diciamo che ancora in una tecnologia leggera anche nel terzo millennio, insomma. Sì, lo vedo dalle fantastiche radio gadget che regala Radio 24 quando va in giro per fiere e convention. Sono bellissimi apparecchi, multicolori e fantastici, ma li vai a smontare dentro, sembra che non ci sia nulla. Senti, invece, sentito lo studente a Luis parlava del DAB, della radio digitale, che è la frontiera che noi immaginiamo più avanzata. Cosa cambierebbe o cosa cambierà con il DAB? È vero che ci sarà un aumento della qualità di ricezione, un abbattimento del problema delle interferenze. Poi diciamo che la radio diventa molto più intelligente, gli apparecchi quando li accendi esplorano lo spettro del DAB, capiscono subito che cosa c'è da ascoltare, gli presentano una lista, tu puoi scegliere. Il flusso è completamente digitale, quindi ci puoi attaccare tantissimi servizi informativi, quelli che abbiamo abituato a consumare su internet. Quindi un'ulteriore resurrezione della radio che risorge anche in qualcosa che al momento non concepiamo nemmeno come applicabile all'idea di radio. Sì, io e te stiamo parlando di rinascita della radio da circa appunto 15 anni almeno, sì. Insomma, e l'abbiamo fatto più quando volte. Qualcuno ci farà l'epitaffio funebre dirà hanno lavorato per la radio tutta la vita. Sì, insomma, diciamo che sono scomparsi prima della radio, ecco, insomma, c'è una parziale consolazione, stiamo parlando di qualche cosa di più grande di noi e anche di più piccolo per certi versi. Però. Senti, l'ultima cosa, Andrea, la radio e la rete, noi siamo cresciuti in questi ultimi 20 anni con il mito della radio e la rete si sposano assieme. Cosa c'è oggi al punto di attenzione nel connubio fra radio e rete? Lo streaming sostituisce in qualche maniera l'ascolto radiofonico? O è sostituibile? Naturalmente c'è un grande dibattito su questo, perché giustamente tu dici di radio digitale, di DAB, noi parliamo da tanti anni. E a questo io punto, penso dal 94 che ne sento dal 94. Esattamente, i primi test la sperimentavamo in Radio Rai nel 94. Esattamente. E quindi diciamo che mentre la radio digitale sperimentava e non riusciva a diventare un fenomeno concreto, in rete? Internet faceva passi da gigante. Ora come ora però, nonostante diciamo questo ritardo, il modello diffusivo, cioè il funzionamento della radio stessa, il fatto che tu da un'antenna trasmetti verso tantissime persone un programma, è ancora vantaggioso rispetto a... Perfetto, su vantaggioso ci fermiamo, se no la motosega coglierà anche i nostri indifesi colli. Ciao Andrea Lavendel.